alta voce. Anna Bonaiuto legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Cosa dirà quel bestione di Don Rodrigo? Rimaner con tanto di naso a questo modo, col danno e con le beffe. Oh, figuriamoci se la gli deve parere amara. Ora è quando fa il diavolo davvero. Sta a vedere che se la piglia anche con me, perché mi son trovato dentro in questa cerimonia. Se ha avuto cuore fin d'allora di mandare quei due demoni a farmi una figura di quella sorte sulla strada, ora poi chissà cosa farà. Con sua signoria illustrissima non la può prendere, che è un pezzo molto più grosso di lui. Lì bisognerà rodere il freno. Intanto il veleno l'avrà in corpo e sopra qualcheduno lo vorrà sfogare. Come finiscono queste faccende? I colpi cascano sempre all'ingiù, i cenci vanno all'aria. Lucia, di ragione, sua signoria illustrissima penserà a metterla in salvo. Quell'altro poveraccio malcapitato è fuori del tiro e ha già avuto la sua. Ecco che il cencio son diventato io. La sarebbe Barbara, dopo tanti incomodi, dopo tante agitazioni e senza acquistarne merito, che ne dovessi portar la pena io. Cosa farà ora sua signoria illustrissima per difendermi, dopo avermi messo in ballo? Mi può star mallevadore lui che quel dannato non mi faccia un'azione peggio della prima? E poi ha tanti affari per la testa, mette mano a tante cose. Come si può badare a tutto? Lasciano poi alle volte le cose più imbrogliate di prima. Quelli che fanno il bene lo fanno all'ingrosso. Quando hanno provato quella soddisfazione, ne hanno abbastanza e non si vogliono seccare a star dietro a tutte le conseguenze. Ma coloro che hanno quel gusto di fare il male ci mettono più diligenza. Ci stanno dietro fino alla fine, non prendono mai requie perché hanno quel canchero che li rode. Devo andare io a dire che sono venuto qui per comando espresso di sua signoria illustrissima e non di mia volontà? Parrebbe che volessi tenere dalla parte dell'iniquità. Oh santo cielo, dalla parte dell'iniquità io, per gli spazi che mi dà? Basta, sarà meglio raccontare a Perpetua la cosa com'è. E lascia poi fare a Perpetua a mandarla in giro, perché a Monsignore non gli venga il grillo di far qualche pubblicità, qualche scena inutile e mettermici dentro anche me. A buon conto, appena siamo arrivati, se è uscito di chiesa vado a riverirlo in fretta, se no lascio le mie scuse e me ne vo dritto dritto a casa mia. Lucia è bene appoggiata, di me non c'è più bisogno. E dopo tanti incomodi posso pretendere anch'io d'andarmi a riposare. E poi che non venisse anche curiosità a Monsignore di sapere tutta la storia e mi toccasse a render conto dell'affare del matrimonio. Non ci mancherebbe altro. E se viene in visita alla mia parrocchia? Ah, sarà quel che sarà. Non vo' confondermi prima del tempo. No, abbastanza di guai. Per ora vo' a chiudermi in casa. Finché Monsignore si trova da queste parti, Don Rodrigo non avrà faccia di far pazzie. E poi... vedo che i miei ultimi anni ho da passarli male. La comitiva arrivò che le funzioni di chiesa non erano ancora terminate. Passò per mezzo alla folla medesima, non meno commossa della prima volta. E poi si divise. I due a cavallo voltarono su una piazzetta di fianco, in fondo a cui era la casa del parroco. La lettiga andò avanti verso quella della buona donna. Don Abbondio fece quello che aveva pensato. Appena smontato, fece i più sviscerati complimenti all'innominato e lo pregò di volerlo scusare con Monsignore, che lui doveva tornare alla parrocchia addirittura per affari urgenti. andò a cercare quel che chiamava il suo cavallo, cioè il bastone che aveva lasciato in un cantuccio del salotto, e si incamminò. L'innominato stette ad aspettare che il cardinale tornasse di chiesa. La buona donna, fatta sedere Lucia nel miglior luogo della sua cucina, s'affaccendava a preparare qualcosa da ristorarla, ricusando, con una certa rustichezza cordiale, i ringraziamenti e le scuse che questa rinnovava ogni tanto. Presto presto, rimettendo stipa sotto un calderotto dove notava un buon cappone, fece alzare il bollore al brodo e, riempita in una scodella già guarnita di fette di pane, poté finalmente presentarla a Lucia. E nel vedere la poverina a riaversi a ogni cucchiaiata, si congratulava ad alta voce con se stessa che la cosa fosse accaduta in un giorno in cui, come essa diceva, non c'era il gatto nel fuoco. «Tutti si ingegnano oggi a far qualcosina», aggiungeva, «meno quei poveri poveri che stentano a aver pane di vece e polenta di saggina. Però oggi, da un signore così caritatevole, sperano di buscar tutti qualcosa. Noi, grazie al cielo, non siamo in questo caso. Tra il mestiere di mio marito e qualcosa che abbiamo al sole, si campa. Sicché mangiate senza pensieri intanto, che presto il cappone sarà a tiro e potrete ristorarvi un po' meglio». Così detto, ritornò ad accudire al desinare e ad apparecchiare. Lucia, tornatele alquanto le forze ed acquietandosele sempre più l'animo, andava intanto assettandosi per un'abitudine, per un istinto di pulizia e di verecondia. Rimetteva e fermava le trecce allentate e arruffate, raccomodava il fazzoletto sul seno e intorno al collo. In far questo, le sue dita si intralciarono nella corona che ci aveva messa la notte avanti. Lo sguardo vi corse. Si fece nella mente un tumulto istantaneo. La memoria del voto, oppressa fino allora e soffocata da tante sensazioni presenti, vi si suscitò d'improvviso e vi comparve chiara e distinta. Allora tutte le potenze del suo animo, appena riavute, furono sopraffatte di nuovo, a un tratto. E se quell'animo non fosse stato così preparato da una vita di innocenza, di rassegnazione e di fiducia, la costernazione che provò in quel momento sarebbe stata disperazione. Dopo un ribollimento di quei pensieri che non vengono con parole, le prime che si formarono nella sua mente furono: «Oh, povera me, cosa ho fatto?» Ma non appena le ebbe pensate, ne risentì come uno spavento. Le tornarono in mente tutte le circostanze del voto, l'angoscia intollerabile, il non avere una speranza di soccorso, il fervore della preghiera, la pienezza del sentimento con cui la promessa era stata fatta. E dopo aver ottenuto la grazia, pentirsi della promessa le parve un'ingratitudine sacrilega, una perfidia verso Dio e la Madonna. Le parve che una tale infedeltà le attirerebbe nuove e più terribili sventure, in mezzo alle quali non potrebbe più sperare neppure nella preghiera, e s'affrettò di rinnegare quel pentimento momentaneo. Si levò con devozione la corona dal collo e, tenendola nella mano tremante, confermò, rinnovò il voto, chiedendo nello stesso tempo, con una supplicazione accorata, che le fosse concessa la forza da adempirlo, che le fossero risparmiati i pensieri e le occasioni le quali avrebbero potuto, se non smuovere il suo animo, agitarlo troppo. La lontananza di Renzo, senza nessuna possibilità di ritorno, quella lontananza che fino allora le era stata così amara, le parve ora una disposizione della provvidenza, che avesse fatti andare insieme i due avvenimenti per un fine solo, e si studiava di trovare nell'uno la ragione d'esser contenta dell'altro. E dietro a quel pensiero s'andava figurando ugualmente che quella provvidenza medesima per compir l'opera saprebbe trovare la maniera di far che Renzo si rassegnasse anche lui, non pensasse più. Ma una tale idea, appena trovata, mise sottosopra la mente che era andata a cercarla. La povera Lucia, sentendo che il cuore era lì lì per pentirsi, ritornò alla preghiera, alle conferme, al combattimento, dal quale si alzò, se ci si passa questa espressione, come il vincitore stanco e ferito di sopra il nemico abbattuto, non dico ucciso. Tutto a un tratto si sentì uno scalpiccio e un chiasso di voci allegre. Era la famigliola che tornava di chiesa. Due bambinette e un fanciullo entrano saltando. Si fermano un momento a dare un'occhiata curiosa a Lucia, poi corrono alla mamma e le s'aggruppano intorno. Chi domanda il nome dell'ospite sconosciuta e il come e il perché? Chi vuol raccontare le meraviglie vedute? La buona donna risponde a tutto e a tutti con un zitti zitti. Entra poi, con un passo più quieto, ma con una premura cordiale dipinta in viso, il padrone di casa. Era, se non l'abbiamo ancora detto, il sarto del villaggio e dei contorni. Un uomo che sapeva leggere, che aveva letto infatti più d'una volta il leggendario dei Santi, il Guerin Meschino e i Reali di Francia, e passava in quelle parti per un uomo di talento e di scienza. Lode però che rifiutava modestamente, dicendo soltanto che aveva sbagliato la vocazione e che se fosse andato agli studi invece di tanti altri, con questo la miglior pasta del mondo. Essendosi trovato presente quando sua moglie era stata pregata dal curato di intraprendere quel viaggio caritatevole, non solo ci aveva data la sua approvazione, ma le avrebbe fatto coraggio se ce ne fosse stato bisogno. E ora che la funzione, la pompa, il concorso e soprattutto la predica del cardinale avevano, come si dice, esaltati tutti i suoi buoni sentimenti, tornava a casa con un'aspettativa, con un desiderio ansioso di sapere come la cosa fosse riuscita e di trovare la povera innocente salvata. «Guardate un poco», gli disse al suo entrare la buona donna, accennando Lucia, la quale fece il viso rosso, s'alzò e cominciava a balbettare qualche scusa. Ma lui, avvicinatosele, le interruppe, facendole una gran festa ed esclamando: «Benvenuta, benvenuta, siete la benedizione del cielo in questa casa, come son contento di vedervi qui! Già ero sicuro che sareste arrivata a buon porto, perché non ho mai trovato che il Signore abbia cominciato un miracolo senza finirlo bene. Ma sono contento di vedervi qui, povera giovine. Ah, è però una gran cosa d'aver ricevuto un miracolo». Né si creda che fosse lui il solo a qualificare così quell'avvenimento perché aveva letto il leggendario. Per tutto il paese, per tutti i contorni, non se ne parlò con altri termini finché ce ne rimase memoria. E a dire la verità, con le frange che vi si attaccarono, non gli poteva convenire altro nome. Accostatosi poi passo passo alla moglie, che staccava il calderotto dalla catena, le disse sottovoce: «È andato bene ogni cosa? Benone, ti racconterò poi tutto. Sì, sì, con comodo». Messo poi subito in tavola, la padrona andò a prendere Lucia, ve l'accompagnò, la fece sedere e, staccata un'ala di quel cappone, gliela mise davanti. Si mise a sedere anche lei e il marito, facendo tutti e due coraggio all'ospite abbattuta e vergognosa perché mangiasse. Il sarto cominciò ai primi bocconi a discorrere con grande enfasi in mezzo alle interruzioni dei ragazzi che mangiavano ritti intorno alla tavola e che in verità avevano viste troppe cose straordinarie per fare alla lunga la sola parte d'ascoltatori. Descriveva le cerimonie solenni, poi saltava a parlare della conversione miracolosa. Ma ciò che gli aveva fatto più impressione e su cui tornava più spesso era la predica del cardinale. A vederlo lì davanti all'altare, diceva, un signore di quella sorte, come un curato. E quella cosa d'oro che aveva in testa, diceva una bambinetta, sta zitta. A pensare, dico, che un signore di quella sorte e un uomo tanto sapiente che, a quel che dicono, ha letto tutti i libri che ci sono, cosa a cui non è mai arrivato nessun altro, neanche in Milano. A pensare che sappia adattarsi a dir quelle cose in maniera che tutti intendano. Ho inteso anch'io, disse l'altra chiacchierina. Sta zitta! Cosa vuoi aver inteso tu? Ho inteso che spiegava il Vangelo invece del signor curato. Sta zitta. Non dico chissà qualche cosa che allora uno è obbligato a intendere, ma anche i più duri di testa, i più ignoranti, andava dietro il filo del discorso. Andate ora a domandar loro se saprebbero ripetere le parole che diceva. Sì, non ne ripescherebbero una, ma il sentimento lo hanno qui. E senza mai nominare quel signore, come si capiva che voleva parlar di lui? E poi, per capire, sarebbe bastato osservare quando aveva le lacrime agli occhi. E allora tutta la gente a piangere. È proprio vero, scappò fuori il fanciullo. Ma perché piangeva tutti a quel modo, come bambini? Sta zitto! Eh sì che c'è dei cuori duri in questo paese. E ha fatto proprio vedere che, benché ci sia la carestia, bisogna ringraziare il Signore ed essere contenti, far quel che si può, industriarsi, aiutarsi e poi essere contenti, perché la disgrazia non è il patire e l'essere poveri, la disgrazia è il fare del male. Allora, un uomo dà soddisfazione a sentirlo discorrere, non come tanti altri, fate quello che dico e non fate quel che fo. E poi ha fatto proprio vedere che anche coloro che non son signori, se hanno più del necessario, sono obbligati di farne parte a chi patisce. Qui interruppe il discorso da sé, come sorpreso da un pensiero. Stette un momento. Poi mise insieme un piatto delle vivande che erano sulla tavola e, aggiuntovi un pane, mise il piatto in un tovagliolo e, preso questo per le quattro cocche, disse alla sua bambinetta maggiore: piglia qui. Le diede nell'altra mano un fiaschetto di vino e soggiunse: vai qui da Maria, vedova, lasciale questa roba e dille che è per stare un po' allegra coi suoi bambini, ma con buona maniera, beh, che non paia che tu le faccia l'elemosina. E non dir niente se incontri qualcheduno. E guarda di non rompere. Lucia fece gli occhi rossi e sentì in cuore una tenerezza ricreatrice. Come già dai discorsi di prima aveva ricevuto un sollievo che un discorso fatto apposta non le avrebbe potuto dare. L'animo attirato da quelle descrizioni, da quelle fantasie di pompa, da quelle commozioni di pietà e di maraviglia, preso dall'entusiasmo medesimo del narratore, si staccava dai pensieri dolorosi di sé e, anche ritornandoci sopra, si trovava più forte contro di essi. Il pensiero stesso del gran sacrificio, non già che avesse perduto il suo amaro, ma insieme con esso aveva un non so che di una gioia austera e solenne. letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.